Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Il fondo della bottiglia di Georges Simenon, traduzione di Francesca Scala. PM si decide a girare la chiave nella toppa e lo fa tanto più in fretta in quanto ha l'impressione di sentire il rumore dell'auto provenire dalle parti dei caddy. Ma non è risposato. Emily mi ha detto: mia moglie sta per rientrare. Ha acceso la luce. Oltre le zanzariere c'è l'atrio, ampio e fresco, poi il soggiorno con le sue poltrone enormi, come piacciono a lui. Vieni. Prima di passare in cucina, torna sulla porta d'ingresso. Come prevedeva, dalla casa dei Kedi sono partite 3 macchine dirette verso il fiume. Tutti, prima di coricarsi, vogliono andare a verificare il livello dell'acqua. Senti, non chiamarmi più Pat. E come dovrei chiamarti? Qui tutti mi chiamano PM. Quell'appellativo gli piace. Da giovane aveva letto che i grandi imprenditori newyorkesi, i banchieri, gli uomini d'affari, avevano il vezzo di farsi chiamare con le iniziali del proprio nome. Che cosa dirai a tua moglie? Non lo so. Se fossi tornato a casa prima, avrei potuto portarti già stasera. In Messico? L'uomo impallidisce. È così turbato che non gli viene in mente di guardare nel frigorifero, da cui PM sta tirando fuori un mezzo prosciutto. Distese sui vari ripiani ci sono anche delle bottiglie di birra e di ale. PM, nel vederle, prova a sua volta un senso di disagio e chiude di colpo il frigo. Vado a prenderti un po' d'acqua, aspettami qui. Non posso farti passare il confine stasera. Perché no? Mildred è lì, con i bambini. In albergo? PM ha di nuovo paura. Teme che Mildred possa aver dato il suo vero nome. No, credo che abbia preso in affitto una camera mobiliata. Nel frattempo mangia il prosciutto, tenendone in mano una grossa fetta, ma i bocconi scendono a fatica. Il fiume si sta ingrossando. Al ritorno rischio di non poterlo riattraversare. Se solo avesse a disposizione qualche ora, anche un'ora soltanto. Ma Nora sta per arrivare. Anzi, non è escluso che porti con sé qualche amico per un ultimo drink, come spesso capita. Non farmi domande. Sei sicuro che non ti abbia riconosciuto nessuno? Altrimenti mi avrebbero preso, no? Giusto. Domanda stupida. La gente di qui lo sa? Chiede l'altro. Tua moglie? No. Lo immaginavo. Avresti preferito che glielo dicessi? Il tono dei due a tratti si fa aspro. Ma è sempre l'altro a rabbonirsi per primo e sempre senza un briciolo di umiltà. Non hai bagaglio? L'uomo alza le spalle. Che spiegazione potrei dare? Ho trovato. Sei un amico d'infanzia, una vecchia conoscenza. Sì. Uno che ho perso di vista da un pezzo. Già. La cosa più difficile da spiegare è il fatto che sei senza macchina. Scusami. Dovrei pure esserci arrivato in qualche modo fin qui. Mi hanno accompagnato degli amici. Ma certo, degli amici diretti in Messico. E tu hai pensato bene di passare qualche ora con me. Dirò così. Aspetta un attimo. Devi raggiungerli a Nogales. No, non funziona. Avrebbero un recapito, starebbero in un albergo e a quel punto noi potremmo chiamarli. Ha le gambe che gli tremano per l'ansia e cerca di distinguere il rumore di una macchina in mezzo al crepitio della pioggia. Ormai è perfettamente sobrio. Lo era anche prima in realtà, ma ha la sensazione di puzzare di alcol e si tiene a una certa distanza. Il fiume si sta ingrossando. Forse domani il livello dell'acqua sarà sceso. Se è così, passeremo il confine. Come? Troverò un modo. Smettila di interrompermi in continuazione. Alla frontiera probabilmente hanno la mia foto segnaletica. Pensavo che attraverso le montagne... Sulle montagne ci sono delle pattuglie a cavallo. Ma prima dicevi... Shh, sta arrivando, zitto. Ti chiamerò... Aspetta, Eric. Eric Bell. Va bene. E tu chiamami PM. Ce la fai a ricordartelo? Ma certo. I resti del prosciutto, buttali qui. Abbiamo una camera per gli ospiti. Non è che... Cosa? PM vorrebbe fargli una domanda, ma si sente un nodo in gola e intanto il tempo stringe e da fuori provengono dei rumori di motore. Da quando sei uscito non è che hai... Ho bevuto solo acqua e Coca-Cola. PM, sollevato, si deterge la fronte. Siediti, accenditi una sigaretta. Non ne ho. Gliene dà un pacchetto. Sì, naturale. Nora è il tempo di cercare la parola adatta e si sentono la porta che sbatte e delle voci che rimbombano nell'atrio. Ci sei? Sono in parecchi e sono anche loro bagnati, perché per vedere il fiume da vicino sono dovuti scendere dalle macchine. Ci sono i Kedi e la signora Pope con il suo cagnolino sotto braccio e poi i Noland che si sono uniti agli altri strada facendo. Entrate ragazzi, un minuto e vi porto da bere. Toh. Nora si è fermata davanti allo sconosciuto, sprofondata in una poltrona del soggiorno, e ai cui piedi si sta già allargando una pozza d'acqua. Un amico, Eric Bell, o meglio un ex compagno di scuola, figurati che all'improvviso si ricorda di non essersi lavato le mani e al pensiero della collina messicana prova una sorta di turbamento. Bell è venuto a trovarmi per qualche ora, ma credo che... Intendi dire per qualche giorno? Replica lei senza ombra di astio. Apre il mobile bar e PM vorrebbe fermarla. Spero che il tuo amico abbia con sé degli abiti di ricambio. Il livello dell'acqua sta salendo a vista d'occhio. Quando siamo arrivati noi non si poteva già più passare. I Pemberton hanno rischiato di rimanere dall'altra parte. Kedy sostiene che scommetto che ne avremmo per una settimana, la interrompe Kedy. Poco fa ho telefonato al servizio meteorologico. Nel Sonora ci sono state delle vere e proprie trombe d'aria. Come hai detto che si chiama il tuo amico? Eric Bell. È la prima volta che viene in questa valle, signor Bell? Sì, è la prima volta. Vedrà, si sta piuttosto bene, anche quando si rimane bloccati dal Santa Cruz. Scotch? Bourbon? No, grazie. Una birra? No, grazie. Sul serio? Il mio amico Bell, interviene PM, è stato molto malato. Ora è guarito, ma i medici gli hanno proibito di bere. Ah, allora non insisto. Voi altri servitevi. Di provviste ne avete almeno? Abbiamo scatolette a sufficienza per resistere una settimana. E da bere? L'unica cosa di cui siamo a corto è la birra, si affretta ad aggiungere la signora Kedy. Harry doveva andare a prenderne qualche cassa oggi pomeriggio, ma sono venuti a trovarci gli Smiley e si sono trattenuti fino alle 6. A quel punto era troppo tardi. Ve ne daremo una cassa noi. Qualcuno ha fame? Quando comincia così, può durare anche fino alle 5 o alle 6 del mattino. Ci sono prosciutto, formaggio e scatolette. Nora ha posato sul tavolino 4-5 bottiglie e dei bicchieri. Tutti conoscono la casa e vanno in cucina a rifornirsi di ghiaccio o di pane. Forse passeranno i Pemberton per un saluto. Ma certo, e magari anche gli altri. Chiunque insomma sia curioso di andare a dare un'occhiata al fiume, vedendo la luce accesa e le macchine ferme davanti alla casa degli Ashbridge, entreranno come se fossero a casa loro. Bourbon, scotch, non si disturbi. Ci sono abbastanza poltrone e cuscini per tutti. La signora Pop finirà per sentirsi male, le succede sempre e ogni volta sporca il bagno e poi si mette a piangere, stringendosi al petto il cagnolino senza che nessuno capisca mai di preciso il perché. Qualcuno ha acceso il grammofono. Nessuno lo ascolta, ma il rumore di fondo che produce offre il vantaggio di evitare che si creino momenti di silenzio. Un vecchio Apache sostiene che pioverà per 40 giorni di fila. Lo ha dichiarato una settimana fa alla stampa. A quanto pare, sulle sponde del fiume non c'è più né un serpente né una lepre. PM si accorge che il suo ospite ha avuto un brivido. Forse è meglio se gli presto un paio di pantaloni e una camicia, dice alzandosi. Come ha fatto a bagnarsi così tanto? Non lo so, ma se lui vuole seguirmi... E in quell'istante, mentre pronuncia quelle parole, PM ha voglia di mettersi a piangere. Ma nessuno se ne accorge. Sono già tutti talmente sbronzi che nessuno fa caso a lui. Dice... Vieni. Sarà forse perché anche lui ha bevuto, ma mentre attraversa il soggiorno ha la sensazione che la casa gli ondeggi intorno. E non è solo la casa a tremare dalle fondamenta, ma tutta la sua vita, tutte le sue certezze, raggiunte a così caro prezzo e con tanta ostinazione. Alle sue spalle sente la musica, il suono delle voci e il tintinnio dei bicchieri. Non sa se ha più voglia di piangere o di vomitare. Vieni. L'altro lo segue con passo agile e felpato, un passo che all'improvviso colpisce PM, tanto è diverso da quello di chiunque altro, e supera con andatura da felino il tavolinetto ricoperto di bottiglie e bicchieri. E se gli saltasse in mente di chinarsi, prenderne uno e vuotarlo? Gli altri, placidamente sprofondati nelle loro poltrone, non hanno la minima idea di quello che rischiano e trascorreranno molte ore immersi nei fumi dell'alcol senza sospettare in nessun modo che lì, in casa con loro, c'è un assassino. Vieni? PM apre una porta dopo l'altra. Oltrepassa la camera di Nora, tutta azzurra. Il bagno di Nora, azzurro anche quello, è decisamente più lussuoso di quanto ci si aspetterebbe in una sperduta valle dell'Arizona. Dopodiché arriva in camera sua, una stanza gialla e marrone, con annesso un bagno giallo. A mano che procede accende le lampade, poi apre un armadio in cui sono appesi diversi completi da uomo. Una volta avevamo la stessa taglia. Da allora sono dimagrito. Senza imbarazzo, senza alcun pudore, proprio come quando erano bambini. Suo fratello si toglie la camicia, scoprendo quel torace bianco, quel petto forte e muscoloso che PM gli ha sempre invidiato. Lascia cadere a terra i pantaloni e le mutande. È nudo come un verme. Forse faresti bene a darmi un pigiama, così me ne vado a letto. Poi, infilandoselo, ti do proprio fastidio, vero? E ancora, come parlando da solo, prima mi fai passare il confine, meglio è. PM si sente qualcosa in gola, qualcosa che non saprebbe definire. Riesce a malapena ad articolare i suoni. Sei armato? No. Apri una porta. Il bagno è a destra, dentro c'è tutto lo corrente. Una volta solo, è più forte di lui. Non gli capitava da molto tempo, eppure non ha bevuto quasi niente. Vomita di getto, è un conato improvviso e ci mette un quarto d'ora buono prima di raggiungere nuovamente Nora e gli ospiti. Si era fatto la barba. Per non dover aprire i rubinetti non si era lavato né la faccia né i denti e per pigrizia si era infilato gli stivali texani senza nemmeno i calzini e aveva indossato i pantaloni della sera prima, ancora umidi. Aveva gli occhi gonfi, fuori delle orbite e la bocca impastata. Come aveva previsto, i loro amici se n'erano andati poco dopo le 5 e chissà, magari avevano fatto un'altra sosta altrove prima di mettersi a letto. Bastava che qualcuno dicesse «Entrate un attimo a bere qualcosa». Potevano continuare così per 24 ore o più. Una volta l'intera brigata aveva vagato per 3 giorni e 3 notti da un ranch all'altro, senza mai uscire dalla valle, prima di aver vuotato tutti i frigoriferi. Dopodiché erano finiti alla caverna, nella parte messicana di Nogales, a bere ancora. Senza far rumore, aveva aperto appena la porta della camera in cui dormiva il fratello, tutto raggomitolato come quando era piccolo, con un lembo del lenzuolo stretto fra i denti. Faceva impressione vedere quell'omone, più alto e più muscoloso di PM, in un atteggiamento infantile e con un'espressione da bambino in volto. Chissà, forse Donald non ha mai smesso di essere un bambino. Era una spiegazione plausibile, ma quello non era il momento giusto per pensare a certe cose. PM aveva richiuso la porta, aveva attraversato il soggiorno disseminato di bottiglie e bicchieri, mozziconi di sigarette e sigari, avanzi di sandwich. Una volta glielo aveva domandato chiaro e tondo a tutti quanti: perché organizzare quel genere di serate proprio sabato, quando nessuno, tranne i Nolan, che avevano un domestico negro, poteva contare sulla servitù l'indomani? Si sarebbe potuto capire se gli altri giorni della settimana fossero stati tutti costretti a essere in ufficio di buon'ora. Il cielo era grigio, con qualche chiazza qua e là, più chiara o più scura, e una striscia di vapore ai piedi della montagna. Non pioveva, la macchina era fredda e umida. PM fece marcia indietro, poi quando svoltò, poco prima del fiume, si accorse che c'erano già 5 o 6 auto, oltre a un furgone e una jeep. Ovviamente avevano avuto tutti la stessa idea, solo che lui aveva un motivo ben diverso per andare a verificare il livello dell'acqua. C'erano tutti quelli della sera precedente, altri ancora, ma non le donne, fatta eccezione per la piccola signora Noland. Come lui, si erano messi addosso il primo indumento che avevano trovato. E già da lontano si capiva che erano eccitati come bambini davanti a qualunque imprevisto spezzi la monotonia della vita quotidiana. Il Santa Cruz era alto, già più alto di quanto non fosse durante la notte. Formava una massa giallo scuro che scorreva densa e vischiosa, si sollevava a tratti e ansimava come una bestia, portando con sé rami, lattine e porcherie di ogni genere. E a mano che la osservavano, gli uomini si esaltavano sempre più. «Hello, PM!» Scese dalla macchina, come gli altri. Sulla riva opposta, su un grosso cavallo bianco, c'era uno dei cowboy di Pemberton. «Ha intenzione di passare?» «È lì da un quarto d'ora, ma non si decide.» Sull'altra sponda del fiume, lungo la strada principale, si estendeva il paese di Tumacacori. La maggior parte dei cowboy abitava lì. In certi ranch, come ad esempio in quello di PM, c'era una casa per il caposquadra e a volte delle baracche per i cowboy scapoli. Non era quello il caso dei Pemberton, che pure allevavano, per loro uso personale, un certo numero di mucche che, fiume o non fiume, bisognava mungere. Il vecchio Pemberton era preoccupato. Il cowboy continuava a fissare i flutti, impassibile, sul suo cavallo bianco. Alcuni compagni di lavoro, venuti insieme a lui dal paese, gli stavano intorno e gli parlavano in spagnolo. «Nora non si è alzata?» chiese la piccola signora Noland. La chiamavano sempre così perché era davvero piccola, ma ben fatta, come una bambolina. Anche lei portava gli stivali, un paio di pantaloni di tela blu come gli uomini, come i cowboy sull'altra riva, e una camicia a quadretti rossi su cui ricadevano i capelli sciolti. Non si era messa né cipria né rossetto. «E il suo ospite, PM?» PM rispose che stava dormendo. Quella domanda lo aveva colto di sorpresa. Guardava il cavallo bianco. Si diceva che avrebbe dovuto pensarci anche lui, che magari un'ora prima sarebbe stato ancora possibile far attraversare al fratello il fiume a cavallo. E poi, una volta raggiunta l'altra sponda, non avrebbe avuto la macchina. Ma Donald avrebbe anche potuto tentare di cavarsela da solo. In fondo, non c'era alcuna ragione perché PM... E questa era la seconda puntata del Fondo della Bottiglia di Georges Simenon, letto da Paolo Pierobon per Ad Alta Voce, che è sempre a cura di Fabiana Carobolante, Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Ricordate sempre che non solo le puntate di Ad Alta Voce sono riascoltabili su RaiPlayRadio.it, ma che vanno in replica la notte all'1:30.